Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 4. The Lord is my shepherd. Era sabato sera e numerosi gruppetti di giovani facevano la fila all'ingresso del teatro, nonostante fosse esposto il cartello di tutto esaurito. Il meticoloso aveva fatto bene i suoi calcoli. L'alone di mistero che si era creato intorno al gruppo era diventato un richiamo irresistibile. La città non si smentiva mai. Bastava che una moda giusta si diffondesse tra le persone giuste e ben presto l'intera cittadinanza si sarebbe accodata con entusiasmo. Vantaggi e svantaggi della provincia. Un nulla ben omogeneo con la potenza di uno schiacciasassi. I ragazzi del gruppo avevano preso posto sul palco, dietro ai loro strumenti. Trago scostò il sipario per sbirciare in sala. Il fitto vociare e le urla impazienti erano sufficienti a far capire la situazione. Tuttavia i suoi occhi bramavano quella visione. Scrutò la platea. Dovevano esserci almeno un migliaio di persone. Erano stipate perfino lungo i corridoi centrali e laterali. Lasciò ricadere il pesante tendaggio. Si volse indietro. Gli altri erano già pronti nella semioscurità. Annuì in direzione delle quinte. Il sipario si aprì. La platea e la galleria erano piene del bagliore freddo dei telefonini. Come fuochi fatui danzavano per lui. Billy iniziò a suonare un ritmo sincopato e duro. Le luci sul palco pulsarono di bianco in sincronia con la batteria. Una scia di luce rossa sciabolò nell'oscurità illuminando Paolo che sferzava la chitarra. Un cono di luce indaco inondò Mirko che iniziò a srotolare un serpente di note cupe. Poi Billy accelerò il ritmo e la musica decollò, libera. Nonostante il Devil fosse ancora spento, si diffuse un boato di eccitazione che riempì ogni spazio quando Drago saltò in scena e iniziò a cantare. Le prime file del pubblico saltavano e ballavano a ridosso del palco. Non aspettavano altro che il momento di impazzire per una sera. Nessuno voleva ricordare che bisogna sempre stare attenti ai propri desideri. Di solito si avverano in modi imprevedibili. Le Anne erano in prima fila. La nera stava ballando a occhi chiusi, accarezzata dallo sguardo di Drago, proprio come la sera alla sala prove in cui aveva visitato il paradiso. La rossa la guardava, era lì solo per accompagnarla. Era terrorizzata dal timore che si potesse ripetere in pubblico l'orgasmo universale, ma allo stesso tempo non voleva lasciare sola la nera. Stava allerta, anche se era impossibile assistere al concerto e rimanere indifferenti. I musicisti davano il meglio con vera passione, si sentiva che erano loro i primi a divertirsi. Drago era saltato fuori dal buio sorprendendo le prime file con un urlo rauco. Lei aveva fatto un salto indietro, spaventata e divertita. Si rese conto, con una punta di dispetto, di stare ballando solo quando il tizio dietro di lei le disse di stare attenta a non fracassargli i piedi con gli stivaletti. Il pubblico si era scatenato. Dall'alto del palco, Mirko vedeva le teste sbattersi, frenetiche. Gruppetti di ragazzini dai capelli arcobaleno pogavano a più non posso. Il vapore prodotto dalla folla attraversava i fasci luminosi, disegnando umidi arabeschi fra i fotoni. Anche lui stava bene. Le dita gli scivolavano fluide sulle corde del basso. La canzone si basava su un giro semplice e ripetuto, che avrebbe potuto suonare anche dormendo. Gli venne in mente un sogno che aveva fatto parecchi anni prima. Lo rammentò vivido e reale. Teneva tra le mani un cristallo verde che vibrava di una sua energia interna. Quando sussurrava qualcosa nel cristallo, lui e la sua voce venivano proiettati istantaneamente a immensa distanza, come se il suo stesso corpo viaggiasse insieme alla sua voce. Contemporaneamente, con il pazzo senso del tempo tipico dei sogni, Un televisore trasmetteva un telegiornale letto da una speaker col viso coperto da un velo in fiamme. Le immagini che scorrevano sullo schermo dietro di lei mostravano fuochi in strade piene di fumo e rottami. Quel sogno gli aveva lasciato dentro l'impressione di avere toccato con mano un potere nascosto, terribile e possente, che giace appena sotto la realtà delle cose. Solo ora si rendeva conto con inquietudine che le emozioni del sogno sarebbero diventate reali nel giro di pochi minuti. La terza canzone si concluse tra urla rauche e selvagge. Il pubblico e i musicisti erano madidi. Billy afferrò un asciugamano, passandolo sui capelli, cercava di arginare i rivoli di sudore che gli scendevano sugli occhi. Paolo si tolse la camicia e, nonostante le ossa sporgenti non fossero un bello spettacolo, ebbe la sua abbondante dose di gridolini di approvazione. Drago fece alcuni passi indietro, beve un rapido sorso d'acqua da una bottiglia e, tolto dallo zainetto un paio di auricolari, li indossò e li collegò a qualcosa che teneva in tasca. Ne diede un altro paio a Mirko, che lo imitò frettolosamente. La rossa li stava osservando perplessa. Drago e Mirko si scambiavano occhiate fuori sintonia con il gruppo. Mentre gli altri riprendevano fiato, quei due sembravano in un altro universo. Nei momenti in cui gli sguardi di Drago e Mirko si incontravano, i loro visi assumevano un'espressione che non aveva niente a che fare con la musica. Ebbe un brivido. D'istinto, tirò per la giacca la nera, ancora persa nel suo sogno. «Ehi, senti, accompagnami in bagno, dai!» «Eh, proprio adesso?» «Perché? C'è un orario?» La nera sospirò, rassegnata. «Andiamo nel bar davanti, i bagni qui dentro mi fanno schifo.» La rossa voleva allontanarsi per un po'. «La gente fa strane cose nei bagni durante un concerto.» Non le era venuta una scusa migliore, ma sembrò funzionare. «Ok, ma muoviti, non voglio perdermi tutto lo spettacolo.» Uscirono fendendo la calca tenendosi per mano. La quarta canzone stava per iniziare. Paolo accennò alcune note di chitarra. Era una melodia sinuosa. Il ritmo e le luci accompagnavano in sincronia la musica verso un crescendo tribale. Il tema iniziale si ripeteva più volte. Aveva un che di antico. Se gli antichi romani avessero potuto suonare metal alle parate, la musica sarebbe stata molto simile, poche note di una melodia inusuale, asciutta e imponente, perfetta per il lettore MP3 di Cesare. Drago si portò al centro del proscenio, microfono in una mano e Devil nell'altra. Le sue percezioni si erano dilatate. Il calore dei riflettori quasi gli scottava la pelle. Avvertiva l'odore del pubblico che aveva preso a battere le mani seguendo il ritmo della canzone. Non li imitò. Era immobile, braccia distese lungo i fianchi, li guardava. Mirko, con un sorrisetto sbilenco che voleva mostrare coraggio, gli fece un cenno d'assenso. Drago esaminò un'ultima volta il mare di volti che aveva davanti. Scattò una fotografia mentale, conscio che niente sarebbe stato più come prima. Si portò il microfono alle labbra mentre il pubblico già lo applaudiva, ma non cantò. Sorrise, freddo, fece l'occhiolino al pubblico e spinse il pulsante del Devil. E all'improvviso fu il silenzio. Un diluvio di silenzio che sommerse il teatro in un istante. Gli spettatori dapprima si guardarono l'un l'altro increduli, quasi a cercare conferma di ciò che stavano vivendo. Poi tutti tornarono a posare gli occhi su Drago e da lì non li distolsero più. Fino a un attimo prima il movimento della folla sollevava nugoli di particelle più leggere dell'aria. Polvere, sudore, tabacco, molecole organiche. Ora la nuvola di emanazioni umane calava come un sudario sulla folla muta. L'intera sala tratteneva il respiro, mentre la funzione d'onda rimestava ogni cellula cerebrale. Una bacchetta cadde dalla mano di Billy, risuonando legnosa nel silenzio vuoto. Il meticoloso aveva immaginato, creato, atteso, vissuto nella sua mente quel momento milioni di volte. Gli si era rizzato ogni pelo del corpo. Sui volti del pubblico c'era un sorriso beato di estasi. Erano tutti in adorante attesa, non si perdevano una sola mossa, forse per la paura che quella visione potesse svanire sotto i loro occhi. Drago indirizzò a Mirko un ghigno compiaciuto. Alzò le braccia come un direttore d'orchestra, poi si rivolse alla folla e urlò: «Chi sono io?» «Dio», rispose un migliaio di voci all'unisono. Drago sogghignò. Indicò Mirko. «E chi è lui?» domandò. «Dio». Il tono era sempre lo stesso, una devota, assoluta, fervente constatazione. Mirko si era sfilato il basso dalle spalle e si era reso conto che quello non era un gioco. Osservava attonito quello strano mondo nuovo. Le sole due parole che riusciva a pensare erano «Cazzo, funziona!». Si accorse di tremare appena. Non si aspettava che funzionasse così tanto. Drago, in piedi sull'orlo del proscenio, a pochi millimetri dal pubblico, guardava le migliaia di mani che si protendevano verso di lui, senza che nessuna osasse toccarlo. «Ce l'ho fatta! Funziona! Guardali! Come sarà facile d'ora in poi! Stanno aspettando solo una mia parola! Mi piacerebbe stare con voi, ma...» Alzò una mano in alto e, percorrendo con lo sguardo la folla, disse: «Ora uscirete di qui. Vi dirigerete a piedi sulla collina e da lì annuncerete la venuta del nuovo Dio, il Senza Nome». Guardò negli occhi della folla. Le luci di scena erano riflesse in migliaia di pupille. Vide che avevano tutti recepito il messaggio. «È tutto, andate ora». Lentamente, in silenzio, un fiume di teste defluì verso le uscite. Billy si alzò dallo sgabello dietro la batteria, dove era rimasto immobile. Paolo depose con cura la chitarra sulle assi del palco. Si avviarono muti insieme alle altre teste. Sembrava che fosse appena terminata la messa di mezzanotte. La sala si svuotò fino all'ultima persona. Non uno di loro si voltò indietro. Come formiche beneducate, evacuarono ordinatamente il loro habitat. Tutto era stato veloce e conciso. Mirko si aggirava in cerchio per il palco. Un criceto nel suo cranio girava frenetico sulla ruota, macinando un pensiero dopo l'altro. «Cazzo, ma è fuori davvero? No, è un genio, no, è un pazzo e io sono più pazzo di lui a dargli retta. O forse non sono così pazzo ed è per questo che ho paura? E di cosa ho paura?» Era come navigare un fiume in canoa sapendo che le rapide non sono lontane. Era tutto troppo veloce per lui, semplicemente non era preparato a essere un dio. Drago lo provocò. «Allora, socio, che succede? Il gatto ti ha mangiato la lingua?» Mirko si irritò. «Tu e le battute del cazzo di tua nonna, e se si accorgono del trucco? Se si svegliano, tornano indietro e ci linciano?» «Ascoltami», gli rispose Drago con il tono che si usa con un bambino. «Quelli oggi hanno avuto un totale, super, orgasmo, mistico, con ogni cellula del loro essere. Ma li hai guardati?» disse fissando Mirko negli occhi. «Hanno visto Dio, il loro Dio personale, faccia a faccia». Rise ironico e Mirko non poté fare a meno di ridacchiare con lui. «Hai visto che facce da dementi avevano? Tutti a bocca spalancata. Li abbiamo riempiti di un'esperienza al di là dei loro limiti mortali. Non se lo dimenticheranno mai». Con tono meditabondo concluse: «Si farebbero divorare dai leoni per noi. Ancora crudi». Mirko saltò giù dal palco. «Va bene, però adesso sloggiamo prima che arrivi qualcuno. «Bene, tanto qui abbiamo finito», disse Drago infilandosi in tasca la scatoletta del Devil. «Tutto davvero semplice e pulito».